10 c'è qualcuno. Avanti, canale 10. Buonasera, con chi abbiamo l'onore di parlare? Ciao, ciao Frank. Cazzo, Gianfra, tutto sparato sei in radio. Troppo forte. Con che microfono stai uscendo? No, con l'andata tra un apparecchio, aspetta che fosse. Aspetta che abbassi il volume io, dai, vediamo un po'. Prova! Un tubo è normale, ci sono scritto in CV. Ho sbagliato il tasto. Ehi, stavo dicendo sparata, era anche troppo forte, quasi incomprensibile, da troppo. Ma bomba! Che microfono stai usando? Quelli che hanno tanti nomi, come si chiamano? Fly, prime, quelli neri, che sono, hanno anche vari fit. Quelli neri, ma è tapper? No, sono da tavolo. Non è che abbiano una marca precisa, ne hanno tante, infatti ne ho due assolutamente identici, però hanno marche diverse. Sono quelli neri con i tastini tondi, che ne hanno 7 tastini tondi, che c'è la lucetta rossa senza lampeggiante. Boh, non ce l'ho presenti, dai, magari l'ho anche avuto, però non riesco a capire. 7 tastini tondi, no. Ma è roba radioamatoriale o roba 27? No, dal punto di vista pratico li puoi collegare dove ti pare. Intanto dietro c'hanno due attacchi specifici, quindi due prese, una per ICOM e una per Kenwood, c'è scritto. Però poi c'è anche il tasto sotto FM, AM, SSB per le tonalità, no? Batteria oppure collegato all'apparecchio. Quindi io ritengo collegato all'apparecchio così non uso le batterie. Niente, sono di uso universale, dai. E è una bella radio comunque, sono belle presenti, bella presente la radio, un po' pimpante. Beh sì, sotto c'è anche la regolazione, se la vuoi più forte, più debole, ma va bene così, da quello che vedo, col piccolo. E beh, come va? Tutto bene, questa zampa? Come va? Sto aspettando che mi chiamino all'ospedale per ricoperarmi, ma ancora non si sono più sentiti. Devo operare al femore. Per il momento sono ancora sempre in casa. Lui, aspettando che mi chiamino. Gli ho mandato un messaggio, mi ha scritto devo parlare con il primario. Le stesse cose, d'altronde l'ortopedia è la più massacrata di tutte, tra incidenti stradali, vecchietti che cadono e così via, è un disastro, e non ce n'è. Ma poi il piede è risolto? Sì, col piede sì, grazie a Dio, col piede risolto. Praticamente mi hanno cambiato la dottoressa, la mia se n'è andata in pensione, ne hanno messo un'altra. E mi ha detto, ma questo ce l'ha da quando ce l'ha? Io ho 4 anni, ma stiamo scherzando che lui ce la deve durare 4 anni. Aspetti, metta questo spray. E cosa ti posso dire? 2 settimane si è formata la crosta. Il medico è questione di fortuna. Sì, ma cavolo, sono stato 4 anni senza poter guarire, addirittura mi è venuta la necrosi, era necrosi, stavo per perderci il piede, cazzo, mi hanno fatto rischiare, quando si poteva curare tranquillamente, adesso sto mettendo una pomata, perché la parte dove si è chiuso è un po' dura e deve praticamente ravvolirsi, sto idratando il piede con una pomata particolare proprio per piedi diabetici, capito? Adesso vediamo come va. Il piede sì, ma la gamba mi sta facendo vedere le stelle, sto dormendo di notte, lui sempre con la stampella, cammino. Insomma, non basta gambe, tra gambe e piedi, tu veramente sei segnato. Cosa è successo? Pascal, sei, bon, sei caduto, sei capitato una cosa del genere. Allora, io la caduta l'ho presa in pescheria, ma non penso che sia quella. Io penso che si sia consumato il femore, la testa del femore, per il tipo di lavoro che facevo, tiravo pedane, pedane d'acqua pesanti dal camion, eccetera, eccetera. Quindi tirando e facendo, forzavi, una parte magari puntavo su quella gamba lì per tirare, e mi ha consumato la cartilagine, capito? Quindi eri predisposto anche comunque, perché una cosa è proprio deve essere spiccato. E già fra, ne ho sentito tanti che hanno fatto questa operazione. Addirittura il padre del ragazzo di mia figlia, da quando ha fatto questa operazione va anche a caccia, figurati, è come se non l'avesse mai fatto. Per quello sì, riescono a riparare abbastanza bene, però sono sempre scocciature a 360 gradi. Qua io nel frattempo sto tentando di infilare un USB, un buco, ma nei vari. Io quando si ha un po' di vecchiaia addosso si diventa così riuscito, così rincoglionito, e non te ne dico. E io sono a forza di ucchimi, perché sono sempre a dolori furti, da non poter resistere. Devi per forza prenderti qualche cosa, perché se no puoi. Ma poi alla fine non ti fanno più effetto, perché se prima mi faceva passare totalmente il dolore, adesso me lo alleviano e basta. Io sto sempre tentando di rompere un qualche asso del collo, chissà che prima o poi ci riesca. E con quello che faccio. Però diciamo, almeno io posso dire che me la cerco, ecco. È un macello, bisogna avere incuzzi anche lì, per farti operare devi avere l'incuzzi. Ui, per carità. Che hanno bisogno di zia Ish. Infatti, porca la miseria, guarda, non ci crederai, ma c'ho un lapus micidiale, sono mezz'ora dicendo che non ricordo il tuo nome, ce l'ho sulla punta della lingua, c'era allucinante, una cosa mi mi ricordo le cose, magari quando ero bambino, non mi ricordo cosa ho fatto neanche stamane. Questo è un principio di Alzheimer, già mi doppio rumo. Speriamo di no. Già me ne bastano quelle che c'ho, poi me le cerco pure. Però proprio l'Alzheimer, insomma, non ha... cioè praticamente sono tipo mister, non so se hai presente quello dei Simpson, no? Quello è il riccone mister Barnes. C'ho talmente acciacchi che oramai non ce ne stanno più, No, dico, nel senso che quando uno comincia a dimenticare, a fare, magari è anche una questione di quando c'è la mente occupata per altre cose, capito? Ti succede quello, anche a me qualche volta lo fa. Se c'ho molte cose da fare, molti appuntamenti, allora un po' mi confondo le idee, a volte mi lascio per dire, cioè ti posso dire io che sono molto pignolo, apro uno sportello e chiudo, prendo una cosa e la metto a posto. Lì, in quei momenti lì, che sono molti pensieri, lascio tutto aperto, la roba in giro, insomma, mi rendo conto che non sono io. C'è anche il fattore che inizia a essere, insomma, grandicelli, dai. Passati 60, quindi qualche colpo lo devi perdere, no? Tu più di 60 ne hai. Me ne sto andando sui 62. No, io non li ho ancora compiuti 60, Luca. Infatti, sento sempre questo problema delle vertigini che mi stanno rompendo veramente le scatole, dovute sicuramente alla cervicale, no? continua così, altro che cervicale. Però sai com'è, quando c'hai quei vizi non te li togli facilmente. A me una volta, sai cosa mi è successo? Sono andato a alzarmi dal letto dopo pranzo per andare a lavorare e ho fatto la pennichella, ad alzarmi dal letto vedevo tutto girare, un capogiro allucinante, da spaventarmi, ed ero solo a casa, non sapevo cosa fare, ho detto mamma mia, io chiamo 118, cazzo, non riesco, vedevo tutto girare, gli armadi che giravano, la stanza che girava, un casino, mi veniva a capogiro, mi sembrava di cadere da un momento all'altro. Ho fatto tempo e tempo a prendere il corpo, si chiama 118, e quando sono arrivati, è arrivata mia moglie con i bambini, si è assustata. Cosa è successo? Ho detto, mi sono sentito male, cosa devo fare? Ho chiamato il 118 perché non so, avevo paura, gli ho detto che era anche un soggetto diabetico, eccetera, eccetera. E sono venuti, mi hanno portato all'ospedale, mi hanno fatto il flebo tutto gatto, poi mi hanno messo su, mi hanno fatto sedere su questa barella. Mi sballottavano da una parte all'altra, i dottori si passavano come una palla, mi passavano, bum bum, l'altro te ne spingeva e poi passava all'altro. Sino a quando mi hanno fatto ristabilire un po' la posizione, perché dice che c'è un germe nelle orecchie che tiene l'equilibrio. Secondo la postura che hai dormendo, ti fa questa roba qua, perché si sposta e va in tilt tutto il sistema dell'equilibrio. Te ne immagini come siamo fatti? Sì, in effetti dipende dall'orecchio, ma i capogiri poi possono essere dovuti anche ad altri fattori. Ad esempio a me mi viene quando sale la pressione. Io purtroppo, meno male, a seconda dei punti di vista, per la pressione non prendo niente, perché la mia pressione di norma è regolare, però come le gira e senza apparente motivo piglia e se ne fa valori da paura. Un paio di volte sono anche dal pronto soccorso, anche io ci ho passato la notte e con questo affare ogni tanto misurava, scendeva, misurava, e nessuno ne capiva niente, quindi boh, cosa vuoi che ti dica? Così di tenere e basta, a quanto pare. Ballerina, dai, ho capito. È come per me la glicemia, a volte ce l'ho 96, 84, a volte ce l'ho 300, dipende anche da quello che mangio io però. E se mangio le pizze è allucinante, vi sale di colpo. Vedi, sotto quell'aspetto io dovrei essere un super diabetico, perché di zuccheri, guarda, io sono quello dai tre cucchiaini di tre bustine di zucchero, al bar, poi gelati, qualche biscotto, succhi di frutta zuccherati, insomma, come zuccheri, però per adesso fortunatamente me lo sto cavando. Poi in compenso ci sono tutte le altre cose. Sì, già fa, quello lì dipende sempre dal pancreas, se si funziona bene tu puoi mettere gli zuccheri che vuoi, li elimina quelli che non servono nel corpo, però se sei diabetico una parte o tutto il pancreas non funziona. La mia è una parte del pancreas che non funziona, quindi devo stare attento nella roba da mangiare, ma io potrei anche non farmi né insulina né prendere pastiglie. Se facessi la dieta però la lettera, che poi non riesci a fare perché è una cosa quasi impossibile, se la facessi alla lettera non dovrei prendere né pastiglie, perché il mio diabete da pasto, capito? Né pastiglie né insulina, niente. Ma tu l'insulina non la prendi? Sì, io ne faccio tre insuline, più le pastiglie. Ah, beh, quindi è chiaro che ci sono tutti quei problemi, poi inerenti anche le ferite e quelle cose lì. Poi, vabbè, ognuno ha le sue purtroppo, man mano che si va avanti con l'età, ci sono tante sorprese. Io cerco di prima dell'evento finale di sfasciarmi il più possibile, così almeno glielo ritorno tutto usato, tutto tipo macchina, no? Perché la lasciare qualche percentuale. Io invece la macchina l'ho sempre lasciata sempre perfetta, sempre senza un graffio, senza nulla, sempre anche quando le ho vendute sempre così, sempre nuove le macchine. Infatti quello del rifornitore mi ha detto, ma perché ci metti con più segni? E li sfruttati, diciamo, perché le perde se li trova nuovi. Perché è una questione di principio, mi piace tenerla bene. Poi magari i sedili si sporcano, invece cerco più sedile, lo lavi quando si sporca e via. Che poi non ti dura la macchina quando si sporca perché si fasciano i primi. E infatti io avevo la paura con questo caldo che si sfasciassero, perché non c'è neanche i coprisedili, ormai ho deciso di fregarmi. Tanto queste macchine non è che durino molto, si fanno, iniziano a fare problemi e ti costano un pacco di soldi. Comunque, poi sono tutto a capogiro, tutto dovente, se mi davano una sussa mi facevano meno male, guarda. Possono dipendere da tante cose, il capogiro può dipendere da tante cose, anche l'artrosi cervicale, se vedi sdoppiato, roba del genere, qual è l'artrosi cervicale? Andiamo avanti, conviviamoci, via. Ah beh sì, io anche se c'è questa cosa, guarda, mi era capitato, fortunatamente è stata una cosa più rarissima, che un giorno non sono riuscito a alzarmi dal letto praticamente. Qualche anno fa sono rimasto praticamente paralizzato, tentavo di muovermi e sentivo questi dolori pazzeschi alla testa, al collo, e quindi non faceva neanche modo di rimanere immobile, se no erano dolori. Poi ho preso un muscolo e fortunatamente è passato quasi subito. Sono cose che capitano ogni tanto. Stamane ho fatto un percorso disgraziato, che neanche io conoscevo. Ho pigliato tanti di quei colpi, ma tanti, ma così tanti, 2 ore di colpi che se mi tiravo una clava in testa mi facevi meno male, guarda. A volte sono anche le posture che usi dormendo, non è che non c'è bisogno di prendere colpi, vabbè, il caso tuo è che tu magari hai sballottato, è fatto, magari anche quello lì, ma probabilmente molte volte anche come ti curi, che la postura che usi, metti l'osso in una maniera sbagliata. Adesso io per dire, ho già letto tutto quanto, quando mi opero non devo mettere le gambe accavallate, io c'ho il viso di dormire con le gambe accavallate, capito? Oppure mi metto supino, ho con le gambe accavallate e supino, e adesso proprio per non mettere le gambe accavallate c'è un apposito cuscino che si mette in mezzo alle gambe per non accavallarlo. Perché poi dà fastidio, soprattutto dopo l'operazione bisogna fare parecchia riabilitazione. Io lo squarcio un po' alto, perché poi c'è un problema di propagazione, quindi mi dà fastidio. Però ho sentito un fischio, non vorrei che fosse qualcuno che vuole entrare, magari non lo sento. Avanti chi vuole entrare. Tanto se la rompe le scatole, basta. Ah, ma perché esiste ancora qualcuno? Io pensavo che oramai si invertono di più sui social a rompere. Ma non sto invertendo più nessuno, io ho provato stasera, guarda, di cosa mi è capitato che si entra tutto, perché se no io non stavo più entrando, anche perché non c'è mai nessuno. Chiami, non risponde nessuno, quindi sembra che stai parlando col muro. No, anzi, ancora qua si sente qualcuno ogni tanto, qua oppure sul 23, a volte sono anche questo di qualche ora, e a volte c'è Marco, a volte c'è, oh, yeah. Vabbè, come ho detto, comunque già volta, ma non è sempre, capito? Devi trovare il giorno giusto e trovarlo è sempre un inghippo. Perché uno che sa che non c'è nessuno, non c'entra e basta. E a meno che se ti gente ti metti d'accordo entri il giorno dopo, se no non si va più avanti. Boh. Anche in banda radio amatoriale poca gente. Guarda, ogni tanto lascio c'è una scansione, ma è raro, ecco, diciamo è raro. E in proporzione c'è più gente qua, ecco. Ma sta morendo tutto la frequenza, è un peccato perché cavolo è un bel lupito. Adesso c'è anche Cibital che Tigisi Bucari che hanno messo su internet, poi questo Cibital che mia figlia si è bella pirata, dice ma chi non ha il telefono, ma stai facendo? Sì, già lo conosco anch'io, ce l'ho anch'io sul telefono, ed è quello che è molto frequentato, tutti stanno lì oramai, perché non hanno problemi diciamo di antenne, di portate, eccetera, eccetera. Ma poi alla fine è un'applicazione anche proprietaria. Poco fa, proprio prima che entrassi, ho acceso un apparecchio qua che dedica di quelli. Potrebbe essere una radio, però è una radio di quelle che è network, no? Sembra un apparato radio con tanto di microfono a palmo, però è un network radio. Però poi dunque non è, se non c'è rete non si prende nulla. Fredda, però è migliore la frequenza, c'è l'apparato davanti, tutta un'altra cosa, gli strumenti che si muovono, non è come Cibital che è una cosa più fredda, rimane, non è familiare. Diciamo che è una cosa che sembra di essere su social. Io a me non mi piacciono le robe social, anzi li odio proprio, su social la media e basta, la radio invece è più, come dire, più umana, ma anche quella digitale, io utilizzo sempre il digitale e ti permette di fare tante esperienze, tante prove, è tutta un'altra cosa, la radio è sempre chiara, non c'è QRM. Va molto ma molto più lontano rispetto a sono tante cose da provare, solo che guarda, io utilizzo il digitale, sai perché? Perché almeno posso parlare col muro realmente, perché parlo con me stesso e mi do anche la risposta automatica. Oh yeah. No, io per dire avevo ricevuto da quando c'è il digitale, non sento più nessuno, non prendo più gusto manco a fare ascolto, non sento radio amatore, non sento nessuno. E ti la girando da una parte così, non sto più ascoltando niente. E va a finire che quelle lì non fanno la fine di Checco. Si ridanno tutti i carti e via. Tanto non ne uso, ma cosa ci ritengo a fare per lasciarli fermi? Scusa un attimo, mi ho sentito il telefono non mi sta funzionando, la finita. Attenzione canale 10, attenzione canale 10, Nord Italia chiama, la stazione Giovannino, il birichino chiota. E avanti Giovannino. Attenzione l'amico che chiama Giovannino birichino, cambio. Mascherato, fai da bravo. Ah beh già, allora. E allora stavo parlando con Gianfranco. Stavo aspettando che entrasse qualcuno, meno male che qualcuno è entrato. Stavo staccando, senti, sono entrato. Non c'era nessuno, quando c'è preparazione, qualche collegamento e basta, se no, qualcuno sul 23, ma se no niente, zero. Va bene, va bene. Gianfranco chi? Avanti Gianfranco, per mascherato. Sì, ciao Fabrizio, visto tu almeno me lo sono ricordato di me, mi hanno ascoltato. Vabbè, mi si è spacciato il telefono. No, non funziona la suoneria. Boh, vabbè. Allora si rimane così, non è un fuori. Cosa mi racconti, Fabri? Allora, raccontami un po' di quella zona, dei matti che ci sono. Ciao Gianfra, bella scorsa, sono un po'. Cosa ti racconti? Stavo stazionando, ho sentito a Gian, per capire che è successo, che c'è gente. È stato qualcuno ci vuole qua, altrimenti non c'è nessuno. Non so. Vabbè Gianfra, è meglio che ci rompa il telefonino, che ti si rompa, che ti rompano il QSO. Guarda che non l'abbia abbassato involontariamente, che succede anche a me qualche volta, Gianfra. Sì, può darsi, può darsi. No, quello me l'hanno già rotto, mi hanno operato da quelle parti, quindi non sono più quel problema. Va bene, ho capito. Ok, vabbè, tu cosa mi racconti? Stavo parlando con... e oggi ce l'ho con te... Con Gianni, è pure facile, con Gianni, dal fatto che non c'è più nessuno. Ma guarda che non è colpa del digitale, comunque, tu fidati che io ascoltavo con un nuovo scanner che ho preso, quelli della Liguria, ma poi in banda amatoriale. Nulla, nada de nada, né in digitale, né in semplice, né in tricetta, nulla. Che è successo? Non sono uscito. No. Rosana, sei uscito, volevo prendere Gianni. No, io ho sentito la voce sotto il fondo, bassa bassa, ma non capivo se era qualcuno che stava uscendo male o se era qualche propagazione. K. Ci sai. Comunque già fatto uscito bene, se tu ti sei abbassato la, come si chiama, il volume della ricezione tua, già fatto uscito benissimo, capito? Ragazzi sta andando, ogni tanto già fatto, è già. Beh, qualche cosa sta prendendo. La settimana scorsa la Vigia Rossa, che un mio amico c'era a casa lì da tantissimi anni, e quindi usciamo lì, andiamo a pescare la parte di Castelsano, conosciamo la Vigia Rossa, capito? Lui fa pesca subacquea, che è fissato, e io invece ci ho guindato a lungo a mano con la canna fresca. E chi l'ha preso di più? E lui me l'ha detto, lui c'era, la famiglia c'era 40 anni da casa lì, lui sa tutti i pozzi, le carte, lui è tutta scogliera, e lui ce l'ha fatto, lui quando gli fa male lui porta sempre 3-4 pezzi, capito? La persona ha tirato un sciato, ha pesato 1,5 kg. E l'ho preso anch'io con la canna così, da 1,3 kg, 1,4 kg. C'aveva anche 20 guasti quello che ho preso io, un sarago pizzuto di chi di massicci. E un'altra volta ho preso una taruta così. Ma lui l'ha presa col fucile, l'ha presa, capito? Ma lì la si pesca, poi adesso vedi, adesso che un po' cala, diciamo, il movimento, comincia a buttare il parametro, 500 grammi, il canto per fare la mangiata per cane, capito? Va bene, avanti Gianfra. Adesso ti faccio sempre la solita domanda, che siccome ci sentiamo 2-3 volte all'anno al massimo, se hai incontrato la Salma e cosa sta combinando? Guarda, 20 giorni fa siamo trovati lì al market vicino a casa, capito? E va lì e niente, è il tappunto, la parte umana è ricado. Quindi è vivo ancora, sì. Un po' cadaverico, presumo, però. È sempre uguale, capito? Lo devo entrare, io non si ricorda più come si accede la radio VHF, capito? La patronale non c'è quello nativo, la radio non ce l'ho più, mi sono trovato più la casa, se la trano sotto. Fabri, che radio, che antenna stai usando? Io? Adesso c'ho l'antennina, sto usando l'antennina, perché? Ma sei Santiago Lope qua, Santiago Lope a picchi positivi. Ma che prima cos'è di me? E a volte sì, arrivavi 7, a volte 8, dipende che antenna usi. per caso riesci a accedere a radio, facciamo usare quello non attivo tuo, perché magari non vuole più, mi sono trovato più a casa, informati. Ecco la sicura, la sono scaduto tutto. Vabbè, non è una gran perdita, tanto no. Poi parla col muro. Allora, vabbè. Così è. Lo bravo è così, bu. Avanti, già. Io ancora non ci sono andato perché ho questa gamba così, fino a quando mi operano non posso andare a nessuna parte. Lo vedi mi è sanato, ma la gamba devo operare ancora. Cosa c'hai? Il femore mi si è consumata la cartilagine e devo fare la protesi. Cazzo, bubu. Anche fare un amico, l'ha fatto per tutti e due. Lo so che a certi le la fanno tutti e due, perché ma da me non c'è bisogno, una ce l'ho normale, l'altra che ci ho consumata. Probabilmente come puntavo la gamba quando tiravo le pedane contro asfalto, puntavo quella gamba lì, facevo veramente un sottosforzo più quella dell'altra, capito? Queste cose, capito, prima diventi grande, ti colpi, capito? Dalla razza alti tu, soffredi, ghetto, 2, 5 sacchi, 20 sacchi, c'è la gara. Però ogni giorno i colpi ti vengono, come hai detto, i colpi vengono a te che. C'è qualcuno che ha fischiato, ma va. Non c'è la mania del cagliula oggi. Andare, lo so, purtroppo è così, Fabri. A me c'è un amico che mi diceva, non invidiare i pacchi a due, pigliare una alla volta. Da poi lo dici che ti domandano un conto quando si vanno, mi. Ogni volta che c'ho dolore mi ricordo di questa frase. Ma normale, quando tu fai questi corsi di ragione, ma tu non sei grande, non la ammazzi cosa. Ti va qua. Sì, in effetti si è guardato l'autoparlante. Forse è sporcata la presa, ha preso talmente i colpi stamane questo affare che anche il telefono mi è partito, per carità. Il problema non ti parte la testa, capito? Non diventi come l'agricoltura famoso qua vicino a casa. Speriamo di no, non mi pintacciare, mi. E già stamane ho fatto una discesa prima di scratti. Sono stato attento, ci scendo in qualche rocca, tutto sassoso, infatti bisogna essere guardati come me per la vecchiaia che ti vai a fare il coso, non so neanche come si chiama, il cross, la bici cross, dai, sullo sterrato e sui sassi. Non fai fuori strada, pensavo facessi fuori strada. Fuori strada la macchina, la mountain bike. No, pensavo che andassi con macchine fuori strada. E mountain bike, già non credo che i colpi li pigli. E cosa ti lavi? Sai com'è? La passione non è che va via con l'età, A meno che proprio no. Non ti tagliamo le gambe. Io molte cose con l'età le ho mollate, perché piano piano bisogna lasciare anche molti ubi, molte cose che ci avevo. Io prima andavo di notte a pescare, facevo tutta la notte, ma adesso se per l'umidità vedrai i dolori che ti vengono. E io no, anche non andavo a pescare di notte, però col gommone, tutto bagnato, tutto frisciatriccia. Vabbè, ero più giovane. Chi è che non ne fa di pazzie? Tutti le facciamo. Vero Fabri? E tu? Sempre quarto, sì. Senti di particolare. Aspetta, ascoltare una cosa qua. Stavo dicendo, mi seguono, se mi trovano l'agricoltura qua faccio con i comunisti, capito? Le fanno cantistardi, arrostisco. Quello cos'è non lo sa neanche lui, però in compenso lo sanno chi l'ha conosciuto. Io sento in quel ciclo che c'è qua, in su, io lo stavo giù, il ciclo dei comunisti, capito? Sempre cantistardi, poi arrostisco, capito? Sembra la vecchia. Quando mai guardo dall'inizio c'è un po' da fare, non è che lo diventa di nuovo, ci rimane. Bottiglia. Sì, un attimo che sto scrivendo un messaggio. Ecco zio, caro Gianfranco, se tutto va bene siamo arruinati. Sì, appena appena, ma non molto, no. Sì. Stai dicendo, anche oggi non ti ho più visto giù, giù al mare, non è cambiato zona. Ah no, già ci sono, guardo sempre se ci sei anche lì al bar, presumo che c'è sempre la sua macchina. Solo che molto spesso, che ne so, se vado in quella zona, faccio Porto Torres, la Pinetta, sempre stando attento a un po' cambio sul Gold, poi vado, se trovo qualche altro ferratino da fare, ma vicino a Platamona, Rotonda, qualche pettine, se ne voglio a Sfocassera, a Sosso, Sennori e poi riscendo, e dipende. Lo so, anche io faccio le torerine, magari non coincide più, non so. Poi ho visto, ho trovato il cazzo di cazzo dei parcheggi, trovare un parcheggio di cazzo di cui andarci alle 5 della mattina. Beh sì, in questo periodo sì, indubbiamente. È così. Infatti stavo spazzando la cazzo a Gianfranco, abbiamo 4 giorni a sentire. Sì, ma adesso siamo da molto che non ci vediamo, Ma da molto, molto, molto. Proprio la mattina che devo ricordare, questo si è frazzato il telefono. Ma adesso mi trovo comprando il telefono. Non sono più, si fa un cazzo. Almeno 4 anni non ci vediamo. Sì, ma tu adesso sei di nuovo qua, non sei ancora in vacanza? No, io sono stato 20 giorni fa, ero giù a Cutia Calzino, capito? Adesso sono qua. Beh, quindi se scendi, io guarda, quasi tutti i sabati sono a Ghero, sono a Porto Torres. Il percorso che faccio è sempre quello, più o meno, perché altri sterrazzini in zona non è che ce ne siano. E niente, ci arrangiamo così finché si può fare. Anche io vado a scena, faccio il stesso giro, capito? Vabbè, sabato scorso ho fatto un bel giro in bicicletta, sono stato in Pinetta, poi sono arrivato a Balai, a Barezzino, ho bevuto una Coca-Cola. Poi sono andato verso Platamona, ho trovato uno spazzettino, ho fatto il bagno e poi mi sono salito. Io quest'anno sono una volta, ci sono stato al mare. Niente, non funziona. Me lo volto. Mio, non ci più. Vabbè. Niente, lo so che ti dico. Che si può piano piano, e anche tu oramai non devi essere tanto giovane, ci avrai, quanto c'hai? 80 anni? Quanti ne ho? Un'ottantina così è. 80, no, 81. Ah, è vero che non t'hanno dato la condizionale a te. Fabrizio c'ha 65 anni. Dai, 65 anni, è un manco, no, mi vuole un bel cura. Quanti ne hai? Io ho 47, io sono giovane, sono ragazzino, capito? Io ho 47 anni, ma però sono come un ventenne. La banca! Sono 82, non avevo pensato che voi ne abbia già. Mi piace che ci volete pieno, e tu capisci? Purtroppo è così. Bisogna che arrivarci all'età mia. Ma già, se io dovessi arrivare come sei tu, io carico, ho due opzioni. O carico il fucile o posso caricare anche la pistola e mi sparo. Ah, come c'è già parlato adesso? Come sono io? E io purtroppo c'ho quello che c'ho, però è irrimediabile la cosa. Ma tu sei nato vecchio, capito? Tu sei già vecchio, non hai 10 anni, capito? Sei così nel DNA vecchio. Io sono convinto che se noi andiamo, io e Gianfranco, allo spizio di Accalazzola, ci sono molto meglio di te. Beh, ci ho visto il pizzino di Nandi. Ma c'è qualche anno già, avrò 60 anni tu. Io non ce l'ho 60. E quanti ne hai? 59. Chi cazzo da uno? E a lui? E cazzo da uno 90 anni? Tu vuoi fumare? Avanti da tre. Il detto che si dice poi è arrivato bene. Poi già se ne vedono persone che lungo il cammino sperdono. Vabbè, il prato arrivarci, come tutto arrivarci bene. Infatti se ci arriva come lui, infatti non l'ha mai prima. Lui è così, perché non ha mai fatto niente in vita sua. Ecco, non ha mai fatto niente, ha fatto sempre cose leggere. Non ha un fisico, ha faticato. Cazzo, pare che ci riesce di chi c'è una rottera, come stai parlando. Ma attendati. Maschera, io ti sto dicendo che di cosa ne faccio in vita mia, non sono vecchio come dici tu a tutti i bimbi, che l'avresti voluto fare le cose che faccio io tu. Ascolta, te ti ha rovinato la coppia di Falcone, lui ti ha rovinato l'esistenza da giovane. Gloria, e a femmini come ti sai? Già, io l'ho abbiata a ciaffi. Buonasera, Luca. Tu che bacchino di già fatto è pure un fisico, Ma se la pensa devi dare ricordo di sempre, non devi mai sottovoltare l'avversario, soprattutto quando è piccolino. Forse no, è perché non li conosce Luca. Io l'ho visto con Viraggio, era mandabulo. Ma tu che sei grosso, però quanto stai a girarti, perché ho fatto tre giri in fondo. Ma briga, non tu ne curi tre, come ti raggi con te, per una voce, ti dico che sei bravo. Mi sono venuto bene, mi hanno lasciato la mano, ho già rubato il portafoglio e sono scappato. Ah, vai a sacro cuore e chiedi, che cosa ho fatto io una volta quando mi hanno rotto le balle, tre tizi. Sono usciti tutti e tre di giussa, a uno l'ha rifasciato pure un gesso, l'ha gissato e a parte di vedere non mi sono capitato manco che l'ha gissato, l'ha rifaccato tutto un gesso. Ma io avevo 20 anni, grazie, va. Occhi avanti, Luca, ecco qua è già franco. Pura va, io non ho problemi. Comunque a te ti ha rovinato, aver frequentato 20 anni a Falcone, uscire sempre con lui. Da... Attenzione, che qua ce l'accetto. Aiù, che a Fabrizio dobbiamo fare il cazzare oggi. Signore e signori, ecco a voi Antonio Inocchi. Noi ho già molte volte perché non entro qua il 27 per questo personaggio qua, capito? Ma lo cerchi, l'ha fatto un'altra volta e fare lo stupido. E quindi per mandarci da quel posto, vedi, chiudo e non me ne frega niente. Se chiudi se alla prossima. Fabri, stavo scherzando. Anche perché sì, adesso li può capitare i suoi abiti per le lasciare, quindi farà la volta, non senza nessuna cerca e va a rompere le scarpe dagli altri. Se invece si è messo guardato allo specchio, vabbè, lasciamo stare, no? Divertitevi, ciao Giafra, ciao Luca, ciao. Gianni, fatevi bene, si chiama le prossime. Avanti Luca. Sì, ciao Fabri. Beh, quello della Buti, ciao, la mano a questa antuccia, Avanti Tino. Chi è? Buonasera. Buonasera Tino. Chi è? Buonasera, ti cantate siete qua, Siete tutti incazzati con la forza, Se chiudi ex, buonasera. Gioia, buonasera a tutti, c'è anche Antonio in riserva, se non sbaglio, mi sembra di aver sentito la sua voce. Antonio riserva. Ciao Antonio, come sei? No, anche le macchine io sono in riserva, dai. Ascolta, stavo giocando con Luca e Tocchi con mio figlio, ma non prende, cosa devo fare? Ti sto aspettando che mi chiamino, non è quello, mi hanno già avanti, sono sempre così a dolori, speriamo che mi chiamino al più presto, perché vai più primi di settembre e poi. Oh yeah. Mascherato, aiuto, entra! Fabrizio, non ti offendere, Fabrizio, che qua è fa. Questa parte è anche fa giocare. Ecco cosa faccio io. Qua ce n'è uno vicino a me, però. Ah, Bucarotto, isso. No, caridade. Se ho preso una gattata. Cosa vuoi che ti dica? Ma una gattata. Tu metti il dito nella piaga, nella ferita e continui a spingere. Ma sei Antonio? No, Antonio. Santiago, va bene. Mica c'è anche Gianfranco. Tieni, Gianfranco, avanti, buonasera. Sì, sono arrivato adesso, quindi non so neanche chi sia entrato. Ne approfitto perché mi stavano chiamando per la cena. Buona serata a tutti, alle prossime, se c'è ancora Fabrizio, ciao, e ciao a tutti gli altri. Ciao Gianni, e buona serata a tutti. Va bene, riprendo io, ciao Raffa, buona serata, dai, l'ha ascoltato. Se vuoi siamo qua. Ciao Gianfra, ciao, ci sentiamo, dai. E fra poco me ne vado anche per portare giù il carnaggio, un po' cagana, Scusami Gian, poi l'altra sera mi sono andato in fretta e in furia perché mi hanno chiamato lì al circolo che c'è lì giù, dai, diciamo, perché una sorta di amici, insomma, non lo va a vedere. E ho dovuto mollare la festa. Ehi, vabbè, non c'è problema, ti. Tanto eravamo lì così. Una bella cosa da vedere, dai. Mi è piaciuta abbastanza, una bella serata. Insomma, ci siamo passati una serata diversa. Sì, oh, yeah. Va bene, scusate un attimino che sto rispondendo a un messaggio che purtroppo mi è andato via una persona a noi cara. Niente, le prendo subito. Tanto una riserva di canola. Io sono qua, no, volevo salutare già qua, ma dopo fai da ciao Gianfranco, dai, ti saluto anch'io, è distratto, scusa. No, speriamo che sia rimasto per ascoltare. E allora tu, i temi gotta, sa? Se non stava aspettando nessuno, entri, chiami, non risponde nessuno, allora un po' abbandonato, dico la verità, facciamo altre cose, non è che devo stare sempre attaccato all'apparecchio. Io, se c'è gente, mi fa piacere, perché è un lupi che io ho, mi fa piacere entrare, però se entri e non risponde nessuno, per 2, 3, 4 sere, 5 sere, alla fine poi ti rompi e non entri più. Ma non mi ricordo manco come si chiama, figurati, ho perso anche quello dei nominativi. L'Ubrofetta sta dicendo. L'Ubrofetta parlava al centro storico, poi non si è più sentito manco lui, deve essere che ha abbandonato. Claudio mi ha detto che ci ha venduto tutto. Ti ho detto solo qualche parte, per la 27 ha detto e basta, tutto adesso ce l'ha venuto. Decisione drastica, adesso magari entrerà con i baracchini che c'ha, ma poi già riviene di nuovo la passione, se li piglia addorno, ti dico io, fa sempre così. Oh, Marto, ti ricordi i walkie-talkie da tatti? Io parlo forse del 1975, massimo 80, che frequentavano, sul 14 erano. Sì. Ah, perché io sto provando, anche se in teoria continua non riesco a provare, vabbè, forse sicuramente non ce la fa arrivare l'antenna. Io mi ricordo sul 14, certo. Chi? Chi cosa? Ah, sei entrato uno, non ecco, poco però, per cui non sei andato, boh. No, avevo andato a posto, così. E anche col bip, non lo so. Ma non ce la faccio a comunicare a distanza di 15 metri, figurati. È che, vabbè, forse la batteria è carica, la prescarica. Erano 50 mili, ma te ne pare, anche non erano una cosa. Ma non io ne avessi due, non fa. Magari c'erano diversi tipi, non lo correvo io da bambino, qualcosa, erano 50 metri fa. Anche il mio. Come quelle dei portati di Toccai che c'erano prima, te le ricordi tante anni no? Certo, ti ho mandato la fotografia di quello che stavo utilizzando. Non ho riscontrato nessun, perché l'ho fatto a sintonia continua, quindi non ho riscontrato nessun tipo di segnale. Io mi ricordo che quando ero piccolo mi divertivo ad ascoltare i CB che parlavano. Mi sentivo, mi pare che facevano 11 e 40, non me lo ricordo bene, però mi sentivo bene. Ma io mi ricordo 14. Sì, magari la vecchiaia tu. Sì, io già ragionito, per giubilarsi mi tiro di Nardi. Beh, è uno che ti dice cazzo che per essere come me è la meglio morti, cazzo. E allora, una cosa scherzare, una cosa è anche offendere, un po' mi ha rotto le palle quella frase, ma lascia perdere. Di Giambarucapo. Niente, ho provato, non fa, non lo so, vabbè. Anche forse una batteria scarica, non giù vede. Speriamo solo un quarto, e non conto che ti manca la frequenza, e tu togli il copertetto, togliete la batteria, che il quarto, vedi la frequenza, come sarà? La porca miseria, 29.7 addirittura. No, 20.7, aspetta, e c'è un po' di ossido, un po' di cosa, aspetta. Così c'è scritto un po', adesso ti mando la fotografia e te la mando, vuoi fare però? Sì, ma però perché sono un quarto, pure mai. Che c'è adesso? Ma aspetta un attimo, ti ho perso, aspetta. Sì, da me la metti la aspetta. Oh, e beh, manica di frucci! È così, aspetta che mi avvicino, voglio provare se funziona. Sì, sto controllando un telefono adesso, con un telefono di quelli di ultima generazione, è caduto solamente in acqua, boh, l'ho tutto smontato, praticamente quando inserivi il connettore mi dava quel triangolo giallo, quel punto esclamativo, la goccia dell'acqua. Ha giocato una bella asciuttata, un buon, ho pulito bene i contatti, lui sta vedendo partito. Bisogna mettere la lavatrice. Ma tanto devo comprare quella specie di coso, di... che fai lavaggi ultrasuoni, quanta la cazzata anche, ma vabbè, già ci sono i metodi, tanto guarda che più di uno ne ho salvato, più di uno. Poi ovvio, se tu, cioè tu, intendo, una persona ricade nell'acqua e poi cerca di ricaricarlo, è fottuto, non deve più provare. Così cosa succede? Che si apre e si pulisce, perché se gli dà la corrente lo manda in corto. Aspetta, non lo dicevi, da la parte della trazione. mattina di 25-30 euro mi sa nuovo, se non mi ricordo, ma altro io uso sempre i metodi vecchi, ho sempre usato, sono sempre andati bene. Il riso dicono di metterlo. Sono cazzate già, perché mi hanno dato un iPhone a me. Che l'hanno messo nel riso, ha detto, boh, strano, c'è, non accende. Vabbè, dammelo, lo apro, cazzo, c'era. Era ancora bagnomaria dentro. Diciamo che sono riuscito a farlo accendere, però l'unico problema era che non si sentiva l'auricolare. Nulla, anche se l'ho cambiato, niente, c'è qualche conto quella, da quelle parti sicuramente. Però se lo usava con gli auricolari quelli con il capo. Vabbè. Sì, vabbè, comunque. Una parte funziona. Invece una commessa, la ragazza che ha regalato il telefono, se l'ha messo nella tasca del camice, si è inchinata perché stava la mamma in terra, stava pulendo, si è inchinata e gli ha detto al secchio, e ha detto spegnilo subito, ah, non riesco a smontarlo, non posso smontarlo, che sono qua un casino, me l'ha regalato il mio ragazzo al compleanno, e l'ha spento, però poi non lo so come è andata, se l'ha fatta aggiustare. Così ne regalano un altro. Prima a volte si è sprovveduti, invece non mi ricordo a chi dei miei conoscenti è caduto pescato al molo. Cazzo, si è inchinato e ne ha fatto un girare in leva. Sì, era qua, 29:07, quello porti di un po' fuori frequenza, va. Questi qua ce li ho quando avevo forse 7 anni, si può immaginare quanti anni hanno. Sì, ma non sono no, il 14 come stai dicendo già, perché ne ho avuto altri e facevamo così. Vabbè, fai girare, ho voluto provare. E quindi ti l'hai trovata la frequenza? Sì, l'ho trovata già. 29,7, però 7, 8, 10, dipende, perché io essendo qua dentro casa devi superare le mura, devi andare in, insomma, nell'antenna, quindi era un po' distorta la cosa, non era chiarissima, però sentiva che stava arrivando lì il segnale. Al contrario del canale 14 e dell'11, capito? Quindi, poi come ha detto Antonio c'è scritta la frequenza, insomma, l'ho impostata e quando parlavo però aumentava di segnale, erano 9,10, 9,20, se invece schiacciavo solamente la portante non ce la faceva neanche a sollecitare lo smitter. Che ore si sono fatte? Passo le 8:10 e adesso mi preparo, mi scendo già a portare il cane. Figuralmente si tende al regalo. Dai, tu ce l'hai fuori, non hai problemi, già ci pensano loro. Ma guarda, tu pensa che ieri notte sono uscito fuori alle 3:30, ho tirato due colpi di pistola perché mi hanno rotto solamente i coglioni il cane degli altri, che ho voluto svegliare il padrone, capito? Giusto per fargli capire che quella gente la notte si riposa per andare a lavorare il domani. Ma perché ha mai un talano? E cazzo, è una cosa continua, sembrava un disco, guarda, credimi. Io i cani li amo perché sono amante dei cani, ma questo è un tipo che è venuto da poco qua nella mia zona e ha 7 pitbull, quindi bisogna metterlo un po' in carreggiata. Ah, amante dei pitbull, ma sarà che tipo l'onfilo, perché i pitbull solitamente c'erano quelli loro. Sì, ma non sai di più, che a me poco mi interessa. Sono attaccato a sua, era addirittura a bussargli la porta e poi, siccome non c'era, non è voluto uscire da casa, gli ho mandato subito i barrancieri, proprio per non fargli le balle. No, io per dire il mio, se proprio non è necessario, non abbaia, non sta sempre a abbaia, ci sono che casa, c'è ragione tu. Ce n'è uno vicino a casa a Cattolo e si sta sempre ammaiando così lo stesso. Il mio, se non è necessario, non abbaia, a meno che veda qualche cane per terrato e lo abbaia, ma è normale quello lì, quando vedono altri cani, ma se no non è che sia un cane che abbaia. Addirittura è l'occhio, se sente il rumore nel camerottolo, si avvicina alla porta, sente abbaiare e odora. Se per dire qualcuno che non conosce, comincia a incazzato, capito? E io allora guardo il buco della serratura, magari c'è gente che sta andando da quella di fronte che lui non conosce, è per quello che fa così. Ma già non si fa di fuggire nulla, è drummito di qua così di b***o. È che purtroppo, insomma, non sono stato l'unico, non sono stato l'unico a denunciare il fatto, perché c'è quello che ha la moglie che teme, c'è la fobia dei cani, quindi è confinante, anche lui ha fatto altrettanto. Un altro, lo stesso il confinante, che i cani entravano dentro e ha denunciato lo stesso. Un altro ancora che si è aggiunto alla, insomma, all'ambarà. Praticamente circondato, o fa del suo per non disturbare gli altri, oppure siamo costretti purtroppo a farci valere, perché giustamente ci siamo 30 anni qua, insomma non abbiamo mai avuto che bisticciare con i vicini, perché è proprio adesso iniziato. Beh, così a metterti più di sopra. No. Quando mai questo qua li lascia liberi così, questi pitbull, li lascia slegati? Ma guarda, nel primo momento stavo facendo la recensione e diciamo che era, tra virgolette, da ammirare, perché la mia e la sua era una recensione abbastanza bassa, quindi che qualsiasi tipo di cane poteva passare, però dal momento che lui ha iniziato a farla e a demolire la vecchia, doveva assicurarsi che i cani non entravano nelle campagne degli altri. In quel caso lì allora sono intervenuto, perché si stava girando anche contro di me, siccome mio figlio, che ha 7 anni, gira anche da solo per la campagna, o perché vuoi che ci voglia mangiare un fico, o perché vuoi giocare con c'ho 3 galline giusto buttate lì, perché la passione è la sua, è di prenderle in braccio e così via. Ha detto, ma metti il caso che questo qua entra al cane, si gira, cazzo, il brano al bambino, cosa devo fare? Come mi devo comportare? No, lui praticamente deve assicurarsi che i cani non debbano uscire dalla campagna sua, e poco gli va. Non può tenere cani così pericolosi, è come quel tossico che praticamente il pitbull ha musicato a Tyson, era con la museruola a Tyson, perché in quel periodo la stavo mettendo che era un po' nervosetto, e si girava, magari andavi a toccarlo, se non ti conosceva si girava, allora le avevo messo la museruola. Quel pitbull, cazzo, se non ce l'aveva manca a guinzare, ce l'aveva per la maniglia della pitturina. Come ho visto a Tyson, subito si è tirato in alto, l'ha preso la coscia, poi l'ha buttato in terra e l'ha preso al collo. Tyson si stava girando, però cazzo, con la museruola non ha potuto fare nulla. E praticamente, meno male che è intervenuta questa ragazza, che al pitbull, anche se non era il suo, gli ha aperto la bocca, gli ha tappato il naso, gli ha aperto la bocca e l'ha fatto mollare, se no me l'avrebbe ammazzato. Un casino. Ma vabbè, facciamo riprendere un po' gli altri, sennò diventa monopolizziamo troppo. Vai a tu. Antonio, sei già beccato. Ci ho beccato le parole nostre, vai a tu. Ah, non ti hanno morsicato ancora. E poi quei cani lì sono ben pericolosi, io li temo. Mi Antonio già dice che cosa, sei d'accordo che era tu, quello che ti succede. Uno, senza contare gli altri 30 che sono dall'altra parte. Infatti c'è Nicolas che mi dice, bene, quando gli andiamo a vedere il mio gatto, perché se ne è appropriato di uno, non è che, non so che nome gli ha messo, infatti sua mamma ha detto, salvi il nome, poi quando vieni qua, così almeno lo vedi, se tu non lasci lì, che se no se lo porta a casa dura 3 secondi forse. Thank you. insomma, per una sciacquata, che ero al campo, che hanno fatto una partita e quant'altro, dai, abbiamo bevuto due birre e poi sono venuto qua. Andiamo una cosa, hai preso il, poi il materiale? No, ho preso perché capisco, allora, tu spoppa le metti pinci di casa, spoppa a letto. Ehi, ma la glicemia ti può provocare il sonno, lo so per esperienza. Se ti sale la glicemia ti provoca il sonno, ma non ti provoca queste cose. Queste cose potrebbero essere roba senile proprio. No. Quanta ce l'aveva? 500. Allora. E come mai non mangia cosa che non deve mangiare? La gente non lo sapeva e mi dice di Gianni Drommi, ci sì, Gianni Drommi. Si può fare certe cose e poi è bello che sono convinti molte volte anche l'anzianità lo fa quando sono problemi senili, proprio magari perdono la memoria oppure vedono cose che non esistono. Io addirittura siamo andati a prendere una donna che ci avevano chiamato che sentiva odore di fumo, a cosa aveva messo il caffè sopra i fornelli perché dice che profumava la casa, casa era bene di Vogudutto. Infatti non è vecchio vecchio, ma è anziano, ma non vecchio. Anzi, a volte anche troppo bassa. Beh, mangio la pizza e mi ammazza 3 zetto di gol, pulci, la pizza non la posso mangiare, pulci. L'altro giorno c'è venuta mia figlia da Bologna, li ho invitati a cena, abbiamo preso una pizza, stava più per la dirotto, dovevamo andare fuori a mangiare, poi mi ha detto cosa facciamo papà, andiamo fuori con questo temporale, e abbiamo mangiato a casa una pizza, beh, ma la cucina a vacco, domani mattina ci avevo la glicemia 280, una cosa del genere. Coincide domani, se no la prossima. Vi saluto, un abbraccio, due bacini e sto qua, ciao, divertitevi, ciao a tutti, dai, sto chiudendo anch'io, ciao Antonio, ci sentiamo, dai, che vado a portare giù il cane, dai. Buona serata. Adeguato, sai, conosce il mio passo, quindi resta molto vicino, non tira, dai, perché se no mi va a zappare, io sto camminando con la stampella mia. Comunque già facci sapere quando sono vita, sappi che ci teniamo, dai, ciao, stai bene, vi saluto ancora, ciao. Ehi, grazie a te della tua preoccupazione, dai, farò sapere, spero di darvi buone notizie. No, ho messo il motovalido, sta friggendo.